edizione. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati per questo mercoledì 26 ottobre. Piove su gran parte dell'Italia, ha piovuto per gran parte della notte, pioverà anche nelle prossime ore. Ieri era arrivata l'allerta della Protezione Civile, ma la situazione si è dimostrata ben più grave di quanto non ci si aspettasse. Dicevamo, ci sono morti, ci sono dispersi in Liguria e in Toscana, ma l'allerta è anche per Roma e allora cerchiamo di capire che succede in queste ore. Saluto il capo della Protezione Civile di Roma, Tommaso Profeta, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Nella capitale come sta andando? Come è andata la notte? Cosa vi aspettate? Ah, diciamo, la notte è andata bene perché non ha piovuto, come previsto ha cominciato a piovere pochi minuti fa a Roma e aspettiamo adesso, diciamo, il picco della perturbazione sta su Viterbo, per cui aspettiamo un primo scroscio intenso intorno alle 8 e alle 9. La macchina dei soccorsi è in campo, noi già l'altro ieri avevamo dato un preallerta alle nostre strutture operative, che poi ieri si è trasformata in un'allerta meteo dopo il bollettino che ha emesso la Protezione Civile, e abbiamo tutte le forze in campo, la Protezione Civile e tutte quante le articolazioni di Roma Capitale che sono appunto in attesa di capire cosa succederà. Tra le 8 e le 9 il picco, si prevedono precipitazioni intense, ammesso che siano prevedibili, perché abbiamo visto... Guardi, si prevedono precipitazioni intense, non come abbiamo visto il 20 scorso, ma comunque precipitazioni intense, noi siamo pronti a fronteggiarle. E noi siamo pronti ad aggiornare sempre i nostri ascoltatori. Grazie, ci risentiremo allora nel corso della mattina al capo della Protezione Civile di Roma, Tommaso Profeta, come sentivate, già al lavoro. Sentiamo come va sulle strade e poi altri aggiornamenti con Prima Edizione. Prima Edizione. Le prime pagine dei quotidiani in edicola, come sempre a quest'ora, sono le 6:19 minuti, 30 secondi in questo istante. Prime pagine che si dividono le aperture tra le due notizie delle ultime ore: il nubifragio, l'avete sentito anche poco fa, in Toscana e Liguria, e il piccolo accordo, il parziale accordo sul fronte delle pensioni in vista oggi dell'incontro con l'Europa. Corriere della Sera apre sul maltempo, un muro d'acqua sulla Liguria, vittime dispersi sotto il fanco. Impressionanti le immagini e poi un commento: un prezzo troppo alto nell'Italia dell'incuria. Si possono fotocopiare, leggiamo dal Corriere della Sera, gli articoli già scritti, le denunce inascoltate, gli inutili appelli alla tutela di un territorio spolpato di ogni difesa naturale e schiacciato dal cemento invasivo. In tanti anni non è cambiato niente e le alluvioni però si moltiplicano. La Stampa: nubifrage e frane, giorno di terrore per la Liguria. Il Secolo XIX, il quotidiano di Genova: inferno d'acqua sulla Liguria, frango e crolli, 7 dispersi nello spezzino, 4 ricordiamo in tutto le vittime. La Repubblica sceglie invece di aprire sull'altra notizia di giornata: governo mini accordo per salvarsi, niente pensioni d'anzianità, all'Unione Europea solo una lettera. Sarkozy che già dice situazione esplosiva. Pensioni, prove d'intesa per l'Unione Europea, anche l'apertura scelta dal Messaggero, che ha in centro pagina invece la notizia del nubifragio e del maltempo. Il Sole 24 Ore, anche qui l'apertura dedicata alle pensioni. Pensioni, stop di Bossi sull'anzianità, dura trattativa con la Lega, aperture sui 67 anni per la vecchiaia e pensioni rosa. E c'è un commento del direttore del Sole 24 Ore che campeggia in prima pagina: la responsabilità etica del Premier. Non possiamo permetterci di prendere in giro l'Europa, perché vorrebbe dire prendere in giro noi stessi. Presidente Berlusconi, leggiamo dal Sole 24 Ore, l'Italia viene prima di tutto, il lavoro e il risparmio degli italiani sono materia delicata, bisogna maneggiare con cura, non basta scrivere lettere all'Europa, faccia quello che serve al suo paese. Così il Sole 24 Ore. Un accordo parziale, come lo definisce anche il Corriere della Sera, che la notizia la mette a centro pagina e la definisce una piccola intesa per l'Europa. Berlusconi a Bruxelles, ma c'è il no di Bossi sulle pensioni di anzianità. Dal Corriere della Sera ancora due segnalazioni dalla prima pagina di questa mattina: la notizia, la buona speranza che arriva dalla Turchia dopo il terremoto, ve l'abbiamo raccontato anche noi a Prima Edizione. Ebbene, la bella notizia è Azra, tornata alla vita dalle rovine in Turchia, una bimba di sole 2 settimane salvata 48 ore dopo il sisma dalle macerie, viva e sta bene. E questa è la notizia di buona speranza. Un'ultima segnalazione sempre dal Corriere Corriere della Sera, me lo trovate oggi anche sulle altre prime pagine. Il bimbo 7 miliardi sarà indiano almeno al 20%. Perché? Perché il 31 ottobre si attende la svolta, i 7 miliardi della popolazione mondiale. Il calcolo della probabilità dice che al 20% dovrebbe essere una bimba e dovrebbe essere indiana. Vedremo se sarà così. Nel frattempo però vi abbiamo promesso questa mattina, ovviamente vista la situazione, aggiornamenti su quello che sta succedendo sul fronte del maltempo. Già vi diciamo subito che anche per oggi la Protezione Civile ha messo un avviso di maltempo per il nord Italia, riguarderà oggi soprattutto Veneto e Friuli, ma la situazione più critica in queste ore è in Liguria e in Toscana. Allora, tutti gli aggiornamenti, Cristina Carpinelli. Sì, purtroppo aggiornamenti che si modificano di minuto in minuto, perché come dicevi tu la situazione è ancora piuttosto critica. Sono almeno 3 le persone morte e un disperso per il crollo di una casa a Cassana, frazione di Borghetto di Vara, quindi siamo in Liguria. I soccorritori nella notte erano riusciti a liberare una giovane donna trovata ancora in vita, ma per le altre persone non c'è stato nulla da fare. Questo quanto ci ha raccontato Franco Bigi, vice sindaco di Borghetto Vara. Quattro sono morti, sono chiusi dentro agli appartamenti, però li abbiamo visti, cose sono, 2 in una casa e 2 in un'altra. Si aggrava anche il numero dei dispersi nel Levante Ligure, duramente colpito dal maltempo, come dicevamo, di queste ultime ore. Sarebbero almeno 7 le persone di cui non si hanno ancora notizie, questo quanto ha comunicato la prefettura di La Spezia, che ha rivolto alla popolazione un invito continuamente ribadito a non uscire di casa. La situazione nello Spezzino è dunque di emergenza piena, continuano ad arrivare segnalazioni di richieste d'aiuto da parte di persone rimaste intrappolate, segnalazioni di frane, di allagamenti, di smottamenti. Sono almeno una 30 i comuni coinvolti, dei quali 5 sono completamente isolati, e tra questi c'è Brugnato, dove i soccorsi sono difficilissimi. E allora abbiamo sentito Claudio Galante, sindaco di Brugnate, che ci ha raccontato questo. Guardi, una tragedia, abbiamo persone disperse, siamo senza acqua, senza luce, non riusciamo a coordinarci, guardi. Guardi, sono diversi, non sappiamo ancora farne il conto. E in emergenza c'è anche Vernazza, Borghetto e Monterosso. Emergenza anche in Toscana ed è a Aulla, in provincia di Massa Carrara. Secondo i vigili del fuoco la situazione è più difficile, quindi siamo nella Lunigiana. Il fiume Magra è straripato, i vigili del fuoco sono intervenuti con 20 automezzi, con personale di soccorso acquatico, hanno gommoni e sommozzatori, stanno salvando tantissime persone. Per ora sono state salvate circa 50 persone. Ci sarebbe una sola persona dispersa, le acque del Magra avrebbero invaso anche alcune aree di Pontremoli e Podenzana. I vigili del fuoco parlano di frane in tutta la provincia di Massa Carrara. E per ora è tutto, Anna. Grazie Cristina Carpinelli, naturalmente ti ritroveremo nell'edizione di GR24 per tutta la mattina, gli aggiornamenti come sempre. Oggi dicevamo ancora emergenza, Veneto e Friuli dovrebbero essere le regioni più colpite, ma anche il Lazio, dove sentivamo da poco ha cominciato a piovere a Roma, e poi domani via via sempre più giù anche in Campania. E un altro luogo dove si teme la pioggia è Pompei. Saluto il prossimo ospite, Antonio Irlando, direttore dell'Osservatorio del Patrimonio Culturale. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Piove lì? Non ancora? Ecco, guardi, c'è stato già qualche avvisaglia. Stamattina ci siamo svegliati con un po' di pioggia. Ecco, anche... Non è ancora intensa come sento, ahimè, da altre parti, anzi... Ma comincia anche lì già a piovere. No, da quelle parti si teme la pioggia per Pompei. Diciamo già che ieri mattina all'interno del sito archeologico si sono alzati altri 2 cedimenti, murature di epoca moderna, non un muro romano di cinta come sabato scorso, ma tant'è. E peraltro oggi arriva negli scavi il commissario europeo alla politica regionale per un sopralluogo insieme al ministro per i beni culturali Giancarlo Galan. Perché? Perché in ballo ci sono 105 milioni di euro, per la verità non tutti, c'è chi dice pochi, ma comunque soldi destinati al sito di Pompei, ma l'Europa anche su questo fronte ci tiene d'occhio. Voi da tempo monitorate la situazione a Pompei, cosa troverà il commissario? Allora, dipende da che cosa faranno vedere al commissario. Noi proprio in questi continui monitoraggi abbiamo stimato, questa è una stima aggiornata ed è anche una stima prudente, che l'80% dell'area di Pompei è a rischio crollo. Quelli di cui le cronache parlano sono le aree aperte al pubblico, nel senso aree dove tutti possono vedere se il crolla. Vostro monitoraggio è di tutta la zona? Di tutta la zona, sì, di tutta la zona, di tutto il perimetro dell'area archeologica di Pompei, oltre che di altri siti archeologici, ma ci riferiamo esclusivamente a Pompei. E la situazione, ci sono, ecco, non tanto case, quartieri, ma ci sono intere insule. Insule significa isolati, delimitati da quattro strade. Avete paura della pioggia che cade? Come? Avete paura della pioggia che cade? Guardi, noi non abbiamo paura della pioggia che cade. La pioggia, ecco, viene evocata spesso. La pioggia è, talvolta è una concausa, ma se questa trasmissione, se questo collegamento l'avessimo fatto nelle giornate di sole, io le avrei risposto che anche in queste giornate di sole ci sono stati appunto crolli. Cioè, in pratica il vero nemico non è la pioggia. La pioggia è come dare uno scossone a chi ha una situazione già difficile. Pompei rischia il commissariamento europeo in qualche modo o dell'UNESCO? Ma guardi, questa non è una prassi, diciamo, prevista. Pronto? Sì, però di sicuro ci tengono d'occhio, come dicevamo prima. Ma questo assolutamente sì, cioè nel senso che non possiamo più scherzare. Noi siamo stati dall'UNESCO ammoniti, cioè i commissari sono venuti, hanno valutato che non c'è un piano di gestione del rischio di Pompei, non c'è assolutamente un piano di conservazione e quindi di manutenzione ordinaria. In più, per l'appartenenza ai siti UNESCO, l'intero contesto, cioè la città che accoglie il monumento archeologico, deve avere una serie di parametri di accoglienza, di vivibilità. Sono le 6:29 minuti, tra qualche ora arriverà il commissario europeo, cercheremo di capire anche qui cosa succederà. Nel frattempo la saluto, Antonio Orlando, direttore Osservatorio Patrimonio Culturale, grazie per essere stato con noi, magari ci risentiremo per aggiornarci e per capire come sarà andata la visita di oggi. Prima edizione. Le 6:37 minuti, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Ripartiamo purtroppo con un altro aggiornamento sul maltempo, perché peggiora ancora il bilancio dell'alluvione che ha colpito lo Spezzino e la Lunigiana. Il numero delle vittime è salito a 5, quello dei dispersi a 8. Il corpo della quinta vittima è stato recuperato poco fa ad Aulla, in provincia di Massa Carrara. Per noi è il momento di tale incontroluce e continuiamo però a parlare ancora di questo tema. Si è detto appelli inascoltati dopo le ultime alluvioni. E allora anche noi torniamo questa mattina nelle zone del Veneto, dove un anno fa, il 31 ottobre, invece era emergenza. Italia in controluce. E la mattina del 26 ottobre vi parla Daniele Biacchessi. La sera del 31 ottobre 2010 sul Veneto si abbattono 500 mm di pioggia fino al 2 novembre, 3 morti, 140 km² di territorio allagati, 500.000 persone coinvolte. Sentiamo il primo dei due reportage di Roberto Bonaldi. In Veneto gli alluvionati del novembre 2010 sono alle prese con le richieste di saldo dei contributi per il ripristino delle normali condizioni di vita. Per farlo, occhi puntati sui prezziari di riferimento. Mio padre ha avuto 90 cm in casa, io abito al primo piano e ho avuto il danno in garage. Bisogna un attimo gestire il discorso, perché hanno fatto un prezzario e purtroppo hanno dei prezzi che sono molto bassi rispetto a quello che è il valore normale di una cosa. La mia residenza è al piano terra, quindi praticamente io ho perso tutto. Fortunatamente sono riuscito a salvare le auto. Con il contributo anche che ci ha dato lo Stato tramite il Comune, stiamo pian piano ripartendo. Rispettare i prezziari è abbastanza difficile per certe cose. Per esempio, su quanto riguarda i beni immobili, intonaci, tinteggiature, eccetera, la riusciamo tranquillamente, perché sono stati più attinenti alla realtà. Mentre per quanto riguarda invece infissi e immobili, quindi cucina, camere, eccetera, probabilmente i nostri tecnici hanno valutato dei prezzi che non sono attinenti alla realtà. Oltre 150 milioni di euro la somma destinata a privati e attività produttive, Un acconto è già arrivato nei mesi scorsi, ma per rimettere in sesto case o aziende, gli alluvionati devono comunque aprire il portafoglio. La signora Paola gestisce un negozio di abbigliamento a Vicenza. Siamo ancora in attesa dei benedetti finanziamenti, di cui è arrivato una piccolissima parte. La merce è andata quasi tutta a Ramengo. I lavori qua ho dovuto farli al più presto perché incombeva il Natale e quindi abbiamo cercato con i nostri mezzi di riallestire il negozio. Fortunatamente ho trovato anche le aziende che hanno capito la mia situazione e mi hanno dato delle possibilità di pagamento posticipato e di questo sarò sempre grata a loro, però ho dovuto arrangiarmi con le mie forze. I comitati di cittadini alluvionati vigilano sulle attività in corso. Alcuni gruppi si sono riuniti nel Comitato Alluvione Veneto 2010. Sabrina Toffanin è una componente. I contributi che sono stati stanziati sono un 75% di un danno che viene quantificato in un preziario che è stato emesso dalla Regione Veneto a posteriori. Quindi noi abbiamo presentato nel novembre 2010 dei preventivi su prezzi di artigiani che dovevano comunque far prendere a vivere le famiglie nelle case danneggiate. Ora a posteriori viene emesso un preziario entro il quale dobbiamo rispondere. Quindi quel 75% è di un preziario che noi tutto sommato non riconosciamo, perché insomma sono prezzi molto relativi. Era la prima edizione di Italia in Controluce. Torniamo oggi con i reportage più lunghi alle 13.30 su Radio 24. Grazie a Daniele Biacchessi. Noi torniamo alle 6.41 minuti. Ancora buona giornata a Anna Migliorati e all'attualità di questi minuti che ci porta ancora, ahimè, a notizie di alluvioni colpite in queste ore duramente. L'abbiamo sentito poco fa, si è alzato anche, ahimè, il bilancio delle vittime. È la zona al confine tra la Liguria e la Toscana. Allora, io saluto dalla Liguria il collega Andrea Ferro. Buongiorno. Sì, buongiorno Anna. Dicevamo, sale a 5 il bilancio delle vittime, ci sono ancora dei dispersi, com'è la situazione Andrea? Ma è stata una notte lunga e disperata nella provincia della Spezia, travolta da questa disastrosa alluvione. La notte ha svelato le proporzioni della tragedia. L'ultimo bollettino, questa volta ufficiale, è il seguente: 3 persone sono morte a Borghetto Vara nel crollo delle loro 2 case, una quarta è stata estratta viva nella tarda serata di ieri. Ad Aulla siamo in provincia di Massa, al confine tra Liguria e Toscana, è stato trovato il corpo di una donna travolta in auto dalla piena di un torrente, un altro morto a Vernazza, i dispersi 3 a Pignone, uno a Vernazza, un altro a Borghetto Vara. Trovati 2 turisti che ancora in serata erano andati per dispersi a Vernazza, ma si tratta ancora di un bilancio provvisorio e frammentario. Molti paesi infatti non sono stati ancora raggiunti dalle squadre di soccorso, l'accessibilità è preclusa dalle frane, dagli smottamenti che hanno praticamente bloccato decine e decine di strade provinciali e comunali. Critica la situazione anche per quanto riguarda i collegamenti a medio e lungo raggio. A Vernazza la ferrovia, la linea ferroviaria Genova-Roma è bloccata da ieri pomeriggio per una frana e ci vorrà, dicono i tecnici di Rete Ferroviaria, ancora molto tempo per ripristinare la circolazione, si parla almeno ancora di 20-24 ore. I convogli sono deviati via Piacenza e per tutta la notte le stazioni lungo la tratta si sono trasformate in rifugi per i viaggiatori che sono rimasti bloccati in attesa di notizie e poi nell'impossibilità di raggiungere comunque alberghi, eventuali centri di accoglienza allestiti. La situazione ancora ieri sera era drammatica sul fronte delle comunicazioni, infatti sono saltate le linee elettriche, è saltata la linea telefonica in molti paesi e ricordo che questa disastrosa alluvione si è scatenata in un triangolo, diciamo così, di Liguria tra terra e mare. Siamo tra la Val di Vara e le Cinque Terre, una zona. E quindi difficile anche da da raggiungere per... Infatti è per la conformazione territoriale, si tratta di paesi, anche quegli stessi paesi costieri che sono collegati magari da una sola strada, si blocca quella strada e diventa... E non ci si arriva più ed è davvero un mare di fango dalla montagna verso il mare, ed ecco perché la situazione è ancora più difficile. Grazie Andrea Ferro, solo uno dei tanti aggiornamenti che vi stiamo dando, ve li daremo ancora in GR24. Grazie Andrea, ti ritroviamo tra pochissimo. D'accordo. Io vi ricordo anche che intanto la Protezione Civile per oggi ha diramato l'allerta per il Veneto, anche per il Lazio, tra le 8 e le 9 attesa il picco a Roma. Ci auguriamo che qui ovviamente la situazione sia meno difficile, continueremo a monitorarla. Nel frattempo ci aspetta necessariamente anche un altro appuntamento questa mattina. Parlavamo prima di Pompei, che rischia, è sotto la lente di ingrandimento dell'Europa, che oggi ci attende risposte da noi, ma attende risposte da noi l'Europa anche e soprattutto su un altro fronte. Paolo Madron, direttore Lettera 43, buongiorno. Buongiorno. Diciamo che nella notte è arrivato questo accordo tra Berlusconi e Bossi su una lettera da inviare all'Unione Europea con le misure di crescita. Il senatore però dice no sulle pensioni di anzianità, per cui l'accordo è solo per l'innalzamento graduale dell'età pensionabile a 67 anni. Voi su Lettera 43 stamattina titolate accordino bluff. Un accordo al ribasso? Sì, un accordo molto al ribasso, più che un accordo, una dichiarazione di intenti. Credo che fino a ieri sera tardi Berlusconi avesse minacciato di non andare a Bruxelles, e quindi questo accordo sia anche il frutto, come dire, sia di un ricatto, sì, insomma. Un ricatto, sì, di un compromesso molto molto a ribasso. Dal resto le pensioni di anzianità, che erano il capitolo forse più importante, non vengono toccate. L'innalzamento dell'età pensionabile arriva a regime nel 2026, non credo che l'Europa possa dirsi soddisfatta di questo accordo. Rischiamo a ben altri sorrisini oggi. Sì, insomma lì poi... lì ognuno poi ha i suoi problemi, esatto, e altri paesi potrebbero pensare anche ai loro. Però sì, certo, l'immagine resta quella. No, uno può, voglio dire, sorridere, può essere come dire sarcastico, però è chiaro che l'Italia è un problema che rischia evidentemente a catena di conteggiare altri paesi, la Francia in primis. Certo è che non si poteva pensare che un governo che in questi anni con una maggioranza schiacciante non aveva fatto i provvedimenti che non vengono chiesti solamente quest'ultima settimana lo potesse fare in 24 ore. In una notte. Maggioranza decisiva, certo. Prima edizione. È rimasto con noi Paolo Madron, direttore Lettera 43. Basterà all'Europa la lettera d'intenti del frutto dell'accordo tra Berlusconi e Bossi oggi? Quello lo vedremo oggi. Ci sono anche provvedimenti che riguardano, diciamo, il famoso piano di sviluppo, su cui non sappiamo molto, ahimè temo di no. Vediamo i mercati stamattina da come ha aperto l'area, si pronuncia una giornata facilissima. Quindi... Allora diamo già anche l'aggiornamento di Tokyo, visto che mi è passato la palla, meno 0,05% l'indice Nikkei in questo istante. Sì. Un po' un senso di attesa. Sì, è un senso di attesa, ma anche di, come dire, di agonia lenta che in queste ore ha subito una accelerata. Io credo che il governo e questa maggioranza dovrebbero prenderne atto, invece c'è questa coriacea resistenza che, come dire, non depone a favore di un senso del paese. In Spagna Zapatero si è mosso diversamente e guarda caso la Spagna adesso è fuori, diciamo, dalla zona considerata dalla tempesta pericolosa. Dalla tempesta non è fuori, perlomeno non è più un problema così urgente, il problema siamo noi. E una risposta no. Oggi dovremo darla. Grazie Paolo Madron, direttore Lettera 43. Grazie, grazie, buona giornata. Alessandro Milan. Eccoci qua, buongiorno. Hai sentito, una notte difficile. Una notte difficile, oggi infatti il giornale titola Berlusconi oggi a Bruxelles si gioca tutto. Sono ore decisive. Ore decisive su tanti fronti. Sono ore decisive anche o meglio questa settimana pare, per arrivare al numero 7 miliardi di che cosa? Di che cosa, Anna? Volevo giusto proporti una scommessa. Di abitanti della Terra, pare che saremo presto in 7 miliardi, entro la fine del secolo pare entro 10 miliardi. Con la domanda che tutti si pongono, oggi i giornali ne parlano. Chi sarà il bimbo 7 miliardi? Ah vabbè, ma questa è una lotta tra l'India e qualche paese dell'Africa, ma quella è una burla, insomma, capire dove nascerà il bambino. La domanda però che si pongono tutti è, questa terra è pronta a sostenere questi 7 miliardi che poi diventeranno 10? Sono teorie, insomma, demografiche che da secoli si ripropongono, ma insomma ora vengono riproposte dai giornali su questa cifra, 7 miliardi. Siamo in tanti, siamo in tanti. Però. Ti aspettiamo alle 7:20 allora con la rassegna stampa, tra poco GR24, come vi avevo preannunciato, torneremo subito sugli aggiornamenti sulla situazione del maltempo davvero critica in queste ore. Da Anna Migliorati ancora buona giornata, ci risentiamo tra poco.